giorno passato, per ogni fatto che mi è accaduto, per ogni sera che non ho capito, per quelle volte che non mi hai sentito. Perché sentire se non vuoi parlare, ma le parole possono bastare. Mi serve solo che mi guardi bene e che il mio sguardo colto si mantiene. Per la mia banda in onda, che nel bene e nel male non affonda, anche se spesso non si trova affatto. Ma non c'è botta che ci abbiamo erotto, se non ci sono non mi trovo bene. Mi cerco, c'è qualcosa che non tiene. Allora non sapete che c'è di nuovo, che se voi non ci siete non mi muovo. E per i miei pilastri, che penso a volte vengano degli astri, e che da solo non mi lasceranno, anche se cose ne succederanno. Perché ho un caratterino non a posto, che molte volte sanno va in difetto, come un cortocircuito in mezzo al cuore, ma sanno rimediare con l'amore. Perché per me è difficile, non si può stare in questo corpo e non sbagliare. Semplice, certe volte io mi arrendo e dovrei insistere, e tante cose poi ci inganneranno, e l'uno contro l'altro ci metteranno, e ci odieremo e non ci parleremo, e come degli strani noi saremo. Ma se il legame si mantiene bene, per voi mille parole avrò da dire, saremo liberi o con le catene, spero soltanto vi potrò sentire. Perché difficile, non si può stare in questo corpo e non sbagliare. Non è semplice, certe volte io mi arrendo, dovrei insistere per voi.